tale che vanno e vengono confuse, non c'è niente di normale. E tutto mi fa male, lui sparisce, torna, mi tradisce, io sto qui, mi sento un animale. Disordine mentale, forse è meglio non pensare a niente, oppure niente eccezionale. Non riesco più a parlare, ogni volta giuro questa è l'ultima, ma poi non glielo so mai dire. Casa sì di riposo al mio sistema nervoso, io mi domando con che piede cominciare la giornata. Domani sai mi prendo la mia vita alla ricerca di permetti buoni per andare a pescare. Disordine mentale. Disordine mentale, sentirti tira su il morale, risentirti mi fa tanto male. Disordine mentale, ma guarda come azzurro il mare, sai che c'è? Si va a pescare. La ricerca di emozioni nuove per poi ricominciare. Disordine mentale. Cerca di un amore grande che mi faccia impazzire. Disordine mentale.